música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Avete mai pensato che possa esistere un luogo fatato in cui ciò che noi abbiamo detto, l'essenza del nostro pensiero, le nostre riflessioni sul quotidiano possano rimanere imprigionati come in un museo, per il beneficio di quelli che verranno dopo di noi? Beh, qualcuno ha pensato a creare una banca della memoria, semplicemente andando a registrare i racconti degli anziani, coloro che non avranno davanti un tempo illimitato per poter raccontare la loro vita. Nella storia ufficiale molte volte si perdono i sapori, si perdono i profumi, si perdono le sfumature, anche perché la storia si appiattisce e poi nel confronto rispetto ai grandi temi della storia. Beh, qui questa mattina vi ricordiamo una puntata del 20 maggio del 2009 dedicata appunto alla banca della memoria, a coloro che vanno in giro a raccogliere brandelli di memoria dagli anziani. Una domanda che mi faccio spesso è dove vadano a finire le nostre esperienze se nessuno le registra, se nessuno le filma, se nessuno ne prende traccia e le abbandona in qualche residuale archivio delle memorie collettive. Io parlo per radio da 20 anni, 25 anni, nemmeno me lo ricordo. Ho uno sgabuzzino, una cantina, dove tengo i supporti della mia memoria radiofonica. Iniziai nel 1983, allora chi faceva radio aveva delle bobine con un grosso registratore che pesava 5 kg e mezzo, non ricordo, era l'esatto peso del mio fucile in dotazione quando feci il militare. Passai dal militare l'anno dopo a avere il primo contratto da precario Rai e avevo sulle spalle un fardello dello stesso peso. Però era ben diverso, quel registratore Nagra con il suo nastrino da 3/4 pollice in realtà era il supporto alle mie memorie professionali. Giravo l'Italia con un microfono, registravo, tagliavo, montavo con la taglierina e con lo scotch, qualcosa di arcaico, qualcosa che le nuove generazioni, Paolo Corleoni che mi sta ascoltando ride, non ha mai visto lui tagliare un nastro con la taglierina, ma era normale. Allora i residui della mia attività professionale erano tutti immagazzinati in queste bobine, in questi nastri che avevo in tante scatole colorate, cambiava il colore del nastro, cambiava il colore della scatola e si stratificavano nel tempo. Beh, il primo livello delle mie memorie professionali sono le bobine da 3/4 pollice. Andando avanti, poi si migliorò, ci dettero un registratore a cassette, le cosiddette stereo 4 venivano chiamate. Avevo anche un bel registratorino, era stereofonico, mi permetteva con 2 microfoni anche di fare delle registrazioni ardite, prendevo anche gli ambienti. La seconda generazione delle mie memorie professionali è fatta con queste cassette. Poi venne un periodo in cui il DAT andava di moda, il DAT era una cassetta digitale, c'era anche il registratore portatile di DAT. Abbrevio, la terza generazione delle mie memorie è fatta con delle cassette DAT. Guardate, le ho tutte stratificate lì, sembra quasi un terreno archeologico questa cantina che ormai è arrivata fino ai travi del soffitto. Poi venne il mini disc, una boiata totale perché ci volevano delle dita di Cenerentola per muovere quei tastini, ma andammo in giro con il mini disc, ma già siamo arrivati quasi alla fine del millennio che ci ha preceduto. Facemmo qualcosa con il mini disc, ma poi il mini disc andò in cantina molto velocemente. Poi iniziai in maniera artigianale, quando ancora Rai tutti tagliavano i nastri con la taglierina, a fare le trasmissioni in digitale. Mi organizzai autonomamente una piccola postazione digitale e il mio programma radiofonico lo facevo la mattina con delle eroiche ragazze che erano già avanti rispetto al resto di quel mondo, registrandole in digitale. Quindi le montavamo in digitale, ci venivano a guardare, sembrava chissà che stessimo nella plancia di un'astronave. Quindi le mie trasmissioni, le mie elucubrazioni erano in dei file nominati che mettevo in tanti CD. Quindi avevo l'ultimo strato fatto di CD. Lo strato attuale delle mie trasmissioni non ha più supporto, è in rete, non me ne importa più nulla, non tengo memoria. So che Paolo Corleoni ce l'ha nel suo computer, quando mi serve qualcosa se lo va a prendere. Quando io voglio riportarmi in memoria qualcosa, è in una futile banca della memoria, che è la rete. Mi vado a prendere i file in MP3 che stanno nel sito di Radio 24, mi sento la puntata in streaming, non mi pongo più il problema di dare un supporto concreto a quello che dico. Perché? Perché mi piace vivere nell'idea che sia un vuoto a perdere, ma so che comunque ormai da qualche parte è. Ormai autonomamente la realtà si è creata una maniera per conservare in memoria quello che io dico. Ma io, perché faccio un programma radiofonico, ho questo privilegio, qualcuno che mi paga e considera degno di un mercato quello che io dica. Non sarà sempre così in assoluto, non è così in assoluto per tutti. Eppure l'umanità ha un'infinità di cose da dire, un'infinità di cose da raccontare. Ci sono momenti, esperienze personali che, se non raccontate dalla viva voce di chi le sta vivendo sulla propria carne, perdono consistenza. Immaginate quando io faccio leggere dei libri o faccio leggere delle pagine scritte da altri tempi, da altre persone. La voce, per quanto professionale, dell'attore e dello speaker, non porterà mai lo spessore, la realtà vissuta sulla carne di quell'esperienza. Nel periodo della mia giovinezza, avere un rapporto sessuale era una cosa veramente difficile. O si andava con delle prostitute, oppure era quasi impossibile. Le case chiuse, sul piano terra c'erano tutte latrine con le ceramiche, con un odore pazzesco, e al primo piano c'erano questa saletta piccola, era sala comune, veniva così chiamata. Però Torino aveva altre case anche più belle, più eleganti, più signorili. In queste case ci andavano tutti, e quando dico tutti, dico che andavano i minorenni con false carte d'identità truccate a 18 anni, andavano gli sposati, andavano i preti e andavano i militari e andavano i politici. Avrete sentito parlare tante volte del fatto che anche nel nostro civilissimo e confessionale paese esistessero i bordelli autorizzati dalla ragion di Stato come sfogatoio delle pulsioni maschili. Tanto se ne è parlato, tanto se ne parlerà. Oggi il problema è letto in chiave diversa, si parla di prostituzione clandestina, si parla di webcam girl, si parla di persone beccate per strada a lumaconare trans, anche appartenenti a ranghi ufficiali. Il problema è spostato su un altro piano. Di questo noi ne vediamo parlare nei film, nei supporti di memoria fittizia, nel racconto artistico, ma raramente abbiamo l'occasione di sentirlo come dalla viva voce di Giulio Alzona Bertazzi, classe 1935, grande esperto in case chiuse torinesi. Veniva la maîtresse e diceva: signorine, andate nel salotto 22. La frequentazione della sala comune era strana, perché venivano i venditori d'oro, venivano con i sacchetti e davano alle prostitute da vedere le collane, gli anelli, vendevano queste cose. Venivano gli studenti, che loro venivano da noi a tetta scoperta, dire: bel ragazzino, vieni su con me che ti faccio e ti insegno mille cose. Lì un po' spaventati. Mentre i personaggi, detto da me precedentemente, quando la maîtresse li chiamava, le ragazze sparivano tutte, perché lì c'erano queste persone. Fra 10 minuti noi spegniamo le luci e tutti quelli che qui in questo momento stanno dormendo, perché non sapete che avete una casa per andare a dormire e venite a scaldare le poltrone qui, quando io riaccendo le luci vi do il flit. Le vostre mogli, le vostre figlie, le vostre sorelle sanno che siete andati al casino. Ecco, io ho qualche memoria simile, non per frequentazione generazionale, non ci troverei nulla di strano, ma sono nato dopo la legge Merlin, cioè, quindi non so di cosa si tratti, però avevo qualche barlume di memoria, di racconto di amici più grandi, di personaggi, mi raccontavano che in realtà il vero problema era quello dei flaneur, di coloro che andavano a far flanella, andavano al casino, bisognava pagare e liberare il posto, semplicemente per respirare l'aria, per vivere nel luogo del peccato, per pascersi della visione, andavano a guardare e non facevano nulla. E la vecchietta, l'inserviente, la maîtresse, li scacciava con il flit. Vi dico flit. Cos'è il flit? Rispondetemi, chi ha meno di 45 anni non lo sa. Era una specie di tubo di metallo con una scatoletta di metallo sotto, con una pompetta dietro, importato nell'Italia dalle truppe di liberazione americane, che conteneva il DDT, che era un veleno da terrificante che si usava in casa contro mosche, zanzare e via dicendo. Nel casino si usava, perché anche lì giravano bestioline inquietanti, ma veniva usato come arma deterrente, un po' come oggi vengono usate le pompe ad acqua per allontanare i pirati che assaltano le navi da crociera. Allora, visto che la nave da crociera, il luogo della delizia, era il bordello, la guardia giurata, la security del casino, che era la vecchia aiuto maîtresse, scacciava i flaneri e quelli che erano senza soldi, perché stanno lì e occupavano indegnamente un posto. C'era un cambio quindicinale delle ragazze, perché si dà il caso che queste prostitute si affezionavano, e i clienti si affezionavano alle stesse prostitute, quindi dovevano cambiarle di città e andare via. Quando le case chiuse sono state chiuse grazie alla legge Merlin, il 20% delle prostitute sono andate a convivere, se non a sposarsi, con i poliziotti, perché i poliziotti, che avevano sempre usato queste ragazze senza pagare una lira, si sono addirittura innamorati di queste ragazze e le hanno sposate o sono andate a convivere con loro. Abbiamo chiuso una prima fase di un racconto. Guardate quanto è denso e quanto sarebbe pieno di spunti, al di là dell'argomento, che forse qualcuno dirà ma non è proprio il caso parlare di queste cose, ma parliamo anche di queste cose perché è un fenomeno importante. Immaginate le mutazioni in alcune frange della società italiana da questa fortissima emissione di figli da un felice e anche a volte amoroso rapporto fra un'ex prostituta, fra una signora che viveva in una casa chiusa, che non aveva la stessa valenza e lo stesso segno di riconoscibilità nella società che oggi ha la donna che esercita il mestiere della prostituta, sia ad alto livello che a basso livello. Era qualcos'altro. E il poliziotto che in realtà rappresentava il braccio dello Stato che proteggeva quella sua lecita e riconosciuta professione, ma allo stesso tempo si prendeva gratuitamente il frutto di quel lavoro. Beh, alla fine uno aveva bisogno dell'altro, uno era stato immaginato, pensato e parte delle sue destinazioni d'uso primario erano occuparsi dell'altro, quindi non c'era maniera migliore che facessero coppie. Ma nasce poi una generazione di italiani che probabilmente sono stati fra i più alacri costruttori, ricostruttori del nostro benessere, che avevano sulle spalle probabilmente il segno di essere esito di questa particolarissima unione. Perché sono partito con questo esempio e dove ho preso la voce di Giulio Alzona Bertazzi? L'ho preso da un sito web che mi è stato segnalato, pensate, da un ascoltatore su Facebook. Mi ha detto: vai a vedere questa cosa, è molto divertente. E ho capito che esistono persone che per attività professionale, non soltanto per hobby o per passione, vanno in giro e cercano brandelli di memoria di persone che non hanno avuto il privilegio di passare attraverso le maglie strette della grande macchina di riproduzione reale. Quindi nessuna televisione li ha intervistati, nessuna radio ne ha fatto personaggi, nessun giornalista ha immortalato il loro racconto. Perché? Perché viene considerato probabilmente un racconto banale, non pieno di quelle particolarità che molte volte ti fanno passare alla storia delle cronache quotidiane. Questa banca della memoria digitale è in un sito, bancadellamemoria.it, e ho al telefono alcuni di coloro che fanno questo lavoro. Per me è un enigma, e per me è qualcosa da scoprire, quindi lo chiedo a voi direttamente. Luca Novarino, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a voi che mi avete fatto scoprire questa cosa. Sei molto giovane, vedo, quindi mi viene da pensare come ti è venuto in mente, a te, al tuo gruppo, chi siete, cosa fate, come mai avete messo insieme questa banca della memoria che sembra rispondere soltanto all'esigenza di noi antichi nostalgici di andare a ritrovare dei brandelli vivaci di periodi che sono passati. Guarda, l'idea è venuta appunto, noi siamo in quattro ragazzi, tutti di Torino, la più giovane Valentina ha 27 anni, il più vecchio, fra virgolette, Franco, ne ha 35, e l'idea è nata un po' dalla voglia, perché abbiamo sempre avuto il piacere e il desiderio di andare ad ascoltare queste storie, che poi sono molto simili alle storie dei nostri nonni, con la differenza che le storie dei nostri nonni magari le abbiamo già sentite più e più volte, dopo un po' diventano... Sì, anche che le storie dei nonni rimangono chiuse nel salottino di famiglia, nel cucinino, nella camera da letto dei bambini. Nessuno registra il nonno e poi lo mette in rete e lo mette a disposizione di chi un nonno magari non l'ha mai avuto con quell'esperienza. Sì, anche se la nostra idea, la nostra sensazione più che altro è che ci sia sempre meno tempo perché i racconti dei nonni vengano tramandati ai nipoti, perché comunque i ritmi attuali, anche la televisione stessa è un sostituto parziale se vogliamo, ma è sicuramente non altrettanto forse valido come contenuti, ma ruba un po' il tempo e lo spazio di quelli che una volta erano dei tempi maggiori e più disponibili per il racconto. E quindi quello che ne abbiamo fatto, mi ha detto, ma vediamo se riusciamo ad andare a scovare, a scoprire delle altre storie. A questo punto non le teniamo solo per noi, ma le diffondiamo. E senti, il meccanismo come funziona? Come si fa a accedere alla banca della memoria e come andate a cercare persone disponibili poi a registrare il nonno e a metterlo a disposizione degli altri? Accedere al sito è semplice perché l'indirizzo è quello che hai ricordato, che è www.bancadellamemoria.it, e chiunque, un po' sul modello di YouTube se vogliamo, può registrare un filmato nei metodi che preferisce, che siano con un telefonino, con una videocamera, in qualsiasi modo, e poi caricarli sul sito attribuendogli una descrizione e delle parole chiave con cui possono essere poi ricercati e associati ad altri filmati che hanno argomenti simili o attinenti. Ecco, sentiamo Giuseppe Picco, classe 1938. Dalla mattina alla sera lavoravo al maschile e un mese all'anno lavoravo al femminile. E andare al femminile era come, ma meglio di essere fuori, ma non per niente, non è che, ma soltanto l'odore, il profumo che si davano ste donne, e poi di sfuggita ne vedevo una, ma solo vedere. Io alla sera entravo con gli altri muratori, andavamo nel maschile e mi addormentavo felice come una Pasqua. E allora mi dicevo, vai al femminile, lavori, senti, io ti pago bene in sigarette, il denaro era sigarette. Non riesci a farti dare delle mutande. Io sapevo che mentre portavo la calce, che facevo dei lavori al femminile in un angolo, passavo davanti a delle celle che davano, erano sottoterra, e lì c'erano le prostitute, quelle che bestemmiavano e quelle che non andavano a messa. Valentina Vaio è un'altra delle ragazze, dei ragazzi che hanno messo su questa straordinaria banca delle memorie. Valentina, io non l'ho detto all'inizio, ma diciamo adesso, Giuseppe Picco è uno dei personaggi più divertenti, il nonno che tutti vorrebbero avere. Mi sembra che di capire dalla sua storia lunghissima in tantissimi file, ne ho registrati soltanto alcuni, ha avuto un'esperienza sia di carcerato che di operatore, operaio, non so bene, quindi frequentatore di carcerati, ma soprattutto di carcerate. Sì, esattamente, innanzitutto tutti. Sì, Giuseppe Picco, detto Pacu Picu, è uno degli ultimi personaggi che abbiamo avuto modo di incontrare e che ci ha incantato, come dicevi tu, un po' il nonno che tutti vorremmo avere, di un'allegria travolgente, una simpatia. Ci ha ospitato in questa sua piccola casa da mangiare, siamo stati lì un'intera serata ad ascoltare le sue storie, che appunto lui ha avuto questa esperienza abbastanza lunga in carcere per poi piccoli furti, niente di esagerato, e ci ha raccontato questa vita della, ci ha raccontato la malavita, quella che tutti conoscono come malavita, ma con un certo, con orgoglio, perché lui sostiene che la malavita di allora avesse delle leggi, delle regole che sono state poi rovinate con l'arrivo della droga. Ecco, voi come l'avete trovato? Per capire, voglio capire il meccanismo, se si può razionalizzare una metodologia di acquisizione di brandelli di memoria e la puoi mettere in un supporto. Allora, in questo caso specifico, a segnalarci di Giuseppe Picco è proprio stato un suo nipote che è venuto a scoprire il nostro sito e ci ha scritto dicendo assolutamente dovete venire a intervistare questo mio zio. Ma infatti questa è anche la ragione per cui ne parlo stamattina, non perché abbia voglia, desiderio o velleità di fare pubblicità a un sito internet, ce ne stanno tantissimi, perché mi piace il meccanismo. Chiunque abbia a questo punto capacità, conoscenza o sappia che esistono brandelli di storia che non sono stati registrati, fermati da nessuno, visto che la radio in fondo è uno dei supporti più interessanti e più attivi nel raccontare piccole storie, anche la nostra radio ogni giorno è fatta di storie individuali, sappia che esiste una possibilità comunque di fare in modo che queste storie abbiano un seguito, come la storia di Giuseppe Picco, trafficante di mutande per galeotte. Io passavo, le salutavo così, ma c'era le sbarre, non che potessi toccarle. Sì, una mano potevo. E le dico, avete mutande? E certo che le ho. Quanto mi dai? Io ho detto, ti do un pacchetto di Nazionale. Non ci fanno fumare, non ci danno sigarette, niente. Va bene un pacchetto di Nazionale. Io vendevo una mutanda a 3 pacchetti di Stop, che erano 2, 4, 6 Alfa. E queste mi davano le prime mi davano la mutanda che si toglievano davanti a me, immagina, di uno che è lì da un anno. No, ma immagina, vabbè. La prendevo, sta mutanda alle sbarre, e subito me la mettevo addosso e poi nel sacco della scaiola, perché dovevo attraversare 7 cancelli e avevo i ferri, i scalpelli, tutto, 7 cancelli con altre guardie che toccavano, e io buttavo le mutande nel sacco della scaiola in polvere. Poi queste qua hanno detto, guarda che io te ne faccio arrivare finché ne vuoi, andi alla mare, mandami 50 mutande. Sembra assurdo in un'epoca in cui la corporeità ha così poca importanza, in cui ci si scambiano passioni attraverso supporti virtuali, sapere che il Giuseppe Picco muratore e galeotto aveva questo lubrico traffico di indumenti intimi femminili in cambio di sigarette, che forse rappresentavano supporti di felicità, di sogno e di suggestione per i suoi colleghi carcerati. Stiamo parlando delle possibilità che ha la memoria individuale a diventare patrimonio comune. Le possibilità che ha normalmente passano attraverso la scelta di alcuni vettori di memoria che selezionano, tra i tanti ricordi, tra le tante testimonianze, quelle che sono funzionali ad essere messi nei loro archivi. La televisione è un formidabile veicolo di memoria, anche se il racconto della televisione non è un racconto realistico, è un racconto mediato, perché è un medium, giustamente. A seconda delle epoche e degli influssi sulla televisione, la televisione racconta a modo suo il mondo. Passato il tempo di quei primi iperrealistici percorsi che faceva Gregoretti, faceva Pasolini, che faceva Mario Soldati, comunque hanno sempre un filtro, una mediazione, se vuoi artistica, se vuoi poetica, se vuoi letteraria, se vuoi anche prettamente politica, quindi hanno visti con l'occhio di un personaggio autorevole, con i crismi dell'ufficialità, che raccontava l'Italia, raccontava il mondo. L'operazione di cui stiamo parlando è un'operazione lievemente diversa. Lo sforzo, e ancora non ho capito quanto remunerativo e quanto a loro gliene venga qualcosa in tasca, ma saranno loro a raccontarcelo, di alcuni ragazzi che, usando la facilità che si ha a creare strumenti di pubblicazione, a mettere a disposizione di un'infinità di altre persone dei prodotti multimediali, dei filmati, degli oggetti fruibili da chiunque, con la facilità che oggi ha il web di appunto creare questo percorso, vanno in giro e cercano storie di nonni. La più singolare e familiare forma di racconto che tutti abbiamo, o perlomeno fino a un certo tempo abbiamo avuto modo di avere, ma le storie del nonno sempre segnate dal logorio delle sue sinapsi, che dava anche un colore diverso, un colore più suggestivo al suo ricordo, un po' come vedere una vecchia pellicola segnata dal tempo. Pensate che Tarantino ricrea questo effetto per dare la perfetta sensazione della ricostruzione filologica dei propri film. C'è lo sgancio della pellicola, c'è il cambio di bobina, c'è la frastagliatura, c'è una scelta sapiente della colorazione usurata di una pellicola. Questo per riportare al genere Grindhouse, anche se fatto agli inizi del 2000, non nell'epoca in cui si è prodotto, quindi gli anni 60 e 70. Questi ragazzi fanno esattamente questo, riprendono dei file video, molte volte registrati con mezzi anche molto artigianali, anche un videotelefonino, e si vede la differenza. Il racconto di un nonno che diventa improvvisamente una meravigliosa icona che ci ricorda stralci di passato che mai avremmo modo di vedere in maniera così realistica. Una mattina, sulla soglia di una chiesa, incontrai una ragazzina di 16 anni. Io ne avevo 20 e non lo so, l'approccio la vidi e dissi, questa sarà mia moglie. 16 anni, una bambina con i calzettini corti, parlo degli anni 54-55, e a un certo punto nel pomeriggio di una domenica la vidi che era uscita con delle amiche. Io timidissimo con questo amico, una domenica dopo l'altra, con tentativi continui. Per darvi un'idea, un giorno li incontrai che era in bicicletta, io preso da furore amoroso le misi una mano su la sua mano che teneva il manubrio della bicicletta, e lei se la tirò via per dire com'era l'ambiente di quei tempi. Questa era la storia di Fabio Riccitelli, un nonno che racconta di come ci si innamorava negli anni 50. Noi abbiamo fatto ieri una trasmissione su le moderne liturgie degli amori impossibili. E allora sembrava tutto facile, sembrava tutto normale, o perlomeno c'era un grande sistema di controllo sociale accettato che faceva sì che poi tutte le tensioni di cui abbiamo parlato ieri, tutte le incongruenze, le difficoltà, fossero ammanzite sotto una grande coperta calda che era il percorso ufficiale degli innamorati che poi sarebbero sposati, poi avrebbero messo su famiglia. Tolta questa coperta, accade quello di cui parlavamo ieri: donne alla ricerca tardiva di qualcuno con cui fare famiglia, uomini in fuga precoce o anche loro tardiva, da qualcosa che sentono come un vincolo, come un peso, come una responsabilità. Ma non avremmo strumenti realistici sufficienti per vagliare il presente se qualcuno non ci mettesse a disposizione vive testimonianze del passato. Avevo sentito in prima parte di questa trasmissione Luca Novarino, che è uno dei ragazzi che hanno messo su questa operazione di Banca della Memoria, che è un sito internet. Quello che mi stavo domandando però mentre vi ascoltavo, caro Luca, è: dov'è il business in tutta questa cosa? Lo fate soltanto per passione o sperate che diventi un lavoro? Scusa, no, la domanda così brutale, ma me lo stavo domandando perché penso che alla fine vi occuperà abbastanza la giornata. Eh sì, adesso 2 su 4 di noi ci lavorano a tempo pieno, per cui è importante che il progetto sia sostenibile, perché ne va dell'esistenza stessa del progetto e di conseguenza del fatto che poi i contenuti possano essere fruiti da chi viene a visitare il sito. Diciamo che su internet, sul web, la pubblicità si dice che sia il motore di ogni iniziativa, e anche sì, noi non sfuggiamo molto a questa regola, però l'idea nostra è quella di fare la pubblicità in modo un po' particolare, cioè quella di andare a raccontare le storie delle aziende attraverso le persone che ci hanno lavorato. Ah, quindi mantenendo fede alla vostra missione no profit, diciamo, che è quella di riportare a disposizione di tutti i memori che altrimenti sarebbero perdute, quindi creando, dando il supporto, diciamo, mantenendo fede, diciamo, alla mission, per dirla in termini aziendalese, vorreste fare la stessa cosa sulla storia delle aziende? Esatto, non la storia quella classica per cui un'azienda è nata, si è cresciuta, ha aperto uno stabilimento, ma quella fatta dalle piccole storie, dalla figura del magazziniere particolarmente estroso, piuttosto che noi stiamo lavorando con un'importante birra, fabbrica di birra, vendeva la birra con la bicicletta, con davanti il cassone col ghiaccio e le bottiglie dentro. Tutte piccole storie, sempre legate ovviamente a un marchio, ma comunque anch'esse una parte della storia, perché il lavoro poi comunque è certamente uno degli argomenti più importanti che possono essere raccontati. Sì, io aggiungo la mia memoria personale alle memorie che avete messo insieme voi. Tutte le mattine vado a prendere il caffè in un bar al piano di sotto di questa radio, dove a un piano c'è una grande sala stampa dove tutti i quotidiani italiani, alcuni anche stranieri che non hanno una vera e propria redazione articolata a Roma, hanno un ufficio di collegamento. Ci sono vari giornali, ci sono delle signore che lavorano lì da decenni. Immagina che l'ambiente è rimasto impietrito nei meravigliosi anni 60, quindi ci sono ancora, ormai soltanto come mobilio, dei grandi centralini di metallo. Le stesse signore ormai sembrano far parte di un arredamento. E fierissime mi portano in giro per quelle stanze arredate con suppellettili che ormai non esistono più, in cui sente proprio l'odore. Io ho ricordato improvvisamente, me l'ero dimenticato, che all'inizio degli anni 80 andai a portare le mie prime corrispondenze per il Mattino di Napoli e vidi la stanza uguale, identica, non è cambiato nulla. Forse cambierà qualcosa, perché pare che debbano chiudere quella redazione. Questo dispiace molto ai giornalisti che ci lavorano, però mi rendo conto che lì esiste ancora tangibile, concreta, una memoria percorribile di cui si può sentire proprio sensorialmente il senso di quello che era magari il lavoro, la professione, anche soltanto 10, 20, 25 anni fa. È cambiato tutto tantissimo. Quindi sei convinto che nelle aziende ci possa essere interesse a ricostruire questi brandelli e questa storicizzazione che in fondo dà anche valore al brand, diciamo, no? Sì, da un certo punto di vista. Dall'altro, ad esempio, viene usato anche come materiale per i corsi di formazione per le persone che entrano, per fare vedere come si lavorava in azienda una volta. Io lo trovo una cosa giusta, nel senso di fare vivere quello che è poi un posto dove si passa un bel po' della propria vita, come un posto che ha una storia, dei valori, a persone che hanno preceduto, che ci lavora adesso, che raccontano com'è andata, cosa hanno fatto, come era diverso e cosa è rimasto invece uguale. Beh, Luca, attingendo dal vostro archivio, avete messo online, faccio ascoltare in questo momento la memoria di Pasqua di Pierro, che è stata titolata La sposa sorvegliata. Era sempre il padre che, quando aveva una figlia da sposare, chiaramente si documentava, si aggiornava, poi le famiglie si conoscevano abbastanza bene, quindi praticamente era il padre che individuava la persona, il marito, la persona che poteva andare per la figlia. Per cui si combinavano i matrimoni, non era una scelta, cioè non è che la ragazza si sceglieva come succede adesso, si combinavano e nella maggior parte dei casi era quasi una forzatura, direi, era la famiglia dello sposo della sposa che forzava un po' e che quindi una volta che avevano individuato la poi si lavorava per arrivare all'incontro e soprattutto, diciamo, al sì. Devo dire che spesso la fiction televisiva cerca di ricostruire questi climi, ma lo dico per esperienza personale, quando vengono lambite epoche di cui si è avuto esperienza personale, ci si rende conto che è come vedere rappresentato in una sorta di rappresentazione da filodrammatica di paese quello che era un'epoca. Molto raramente, molto difficilmente si riesce a sentire la ricostruzione esatta del tempo, dell'epoca, del peso del periodo che la nostra memoria ancora ci riporta in superficie, finché ancora saremmo lucidi di riportarlo in superficie. E molto di più, in realtà, dà senso di un'epoca passata la viva voce di una persona che ne racconta particolari che sembrano indifferenti, del tutto inconcepibili per uno scenografo, per un scrittore di sceneggiature, per un regista, ma sono appunto quelle differenze che immediatamente creano il sortilegio. Vi stiamo raccogliendo impropriamente, perché non è roba che abbiamo preso noi, ma l'abbiamo preso dalla rete, visto che è a disposizione di tutti, brandelli di memorie di nonni che sono state messe in rete da un gruppo di ragazzi volenterosi che ha creato bancadallememoria.it, che è un sito internet che fa una operazione no profit. Loro hanno detto: noi mettiamo in rete a disposizione di tutti delle testimonianze di persone nate prima del 1940 sotto forma di racconti di massimo 10 minuti. Il progetto è finalizzato a dare visibilità a persone, a situazioni che non avrebbero visibilità, messe tutte assieme, collazionate, confrontate, integrate con una contestualizzazione del periodo in cui sono prodotte, con altre notizie, diventano una meravigliosa griglia che ci fa ripensare, ricordare ad aspetti non consueti di momenti passati, di storia non lontanissima, è storia recente. Viene in mente che potreste anche voi, telefonando alla nostra segreteria telefonica, fare qualcosa di simile, raccontare qualcosa che nessuno ha mai pensato degno di essere raccontato. Vi ricordo il numero, è 800 28 11 11, la segreteria classica, mitologica di Melog, quella in cui avete lasciato per lunghi anni i vostri insulti e il vostro vituperio indirizzato alla mia persona. Usatela una volta tanto per raccontare ciò che è irraccontabile, ma è raccontabile non perché contenga qualcosa di profondamente vergognoso, ma semplicemente perché a nessuno è interessato sentirselo raccontare. 800 28 11 11. Abbiamo iniziato a tirare la cinghia dal 1941. La guerra è iniziata nel 40, no? Nel 41 abbiamo avuto il tesseramento dei viveri, quindi si faceva già la fame. E poi progressivamente è andata sempre peggiorando, c'erano sempre più pochi viveri, le razioni ridotte, e poi addirittura mancavano i generi, proprio non si trovava più. Pensi che siamo arrivati al punto di non avere neanche più il sale per condire i cibi, quegli scarsi cibi che avevano, non c'era neppure il sale. C'era gente che aveva perso il lavoro anche per i bombardamenti, così, e cercava di mantenersi commerciando acqua di mare. Andavano in bicicletta, in treno, non so come, andavano al mare, riempivano dei recipienti di acqua di mare e poi la vendevano sui mercati, acqua salata, per condire i cibi, ecco. Questo era il nonno Eraldo Bessone, che racconta qualcosa che la mia generazione è abituata a sentirsi raccontare dai genitori, le miserie e le privazioni degli anni della Seconda Guerra Mondiale. Noi addirittura avevamo rimosso questi ricordi perché eravamo stanchi, siamo i figli, i baby boomer, chi come me è nato nel 54 ha visto tutti gli anni splendidi della ricostruzione e dell'esaltazione, della ricrescita, della rinascita. Eravamo allevati a fettine e anabolizzanti, che stanno dentro le fettine, quindi eravamo bambini molto fieri dei nostri formaggini. Dovevamo ipernutrirci proprio perché eravamo sottoposti a questo stressante racconto continuo delle privazioni della guerra. Gli anni della guerra, gli anni della fame, la mancanza del sale, sembra impossibile oggi, anzi il sale è uno degli elementi tabù, tutti togliamo il sale, non mettiamo sale a tavola, il sale fa male, il sale crea dei problemi, l'acqua deve essere povera di sodio, quindi il sale è qualcosa che viene considerato fra gli elementi nefasti. Il sale del periodo era una ricchezza, come l'era dalle origini dello scambio e del baratto tra gli esseri umani. Questo signore ci racconta come ci si arrangiava in carenza di sale. Evidentemente certe memorie, certe impressioni erano rimaste ben ancorate nelle memorie collettive. Perché io ricordo quando ci fu in realtà negli anni Ottanta il primo attacco a Baghdad, per la prima volta da quegli anni della Seconda Guerra Mondiale agli anni felici del boom, gli italiani ebbero il sentore, forse la guerra poteva essere qualcosa che si ravvicinava alla nostra esperienza. Ancora non avevamo l'impressione che queste guerre sarebbero sempre combattute lontane e non sarebbe mai stata intaccata la nostra integrità di vita da quelle guerre, anche se non nell'emozione e nelle vittime che ci toccavano da vicino, nelle persone di coloro che la facevano fisicamente. Ma mai un bombardamento arrivato alle nostre case, mai una fame concreta e reale data da conflitto bellico ha lambito le nostre porte dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Beh, eppure quando ci fu quella notte in cui Emilio Fede annunciò che nel cielo verdastro di Baghdad c'erano i primi bombardamenti americani, il giorno dopo ci fu l'assalto ai supermercati e le signore del tempo si riempirono la casa di zucchero, di sale, di farina, di cose totalmente inutili, ma che nel loro ricordo rappresentavano i baluardi indispensabili alla sopravvivenza in tempo di guerra. Una volta andavi a fare la spesa, era tutto impacchettato al momento e ogni cosa aveva la sua carta, quindi il macellaio aveva la carta paglia, era una carta gialla, no? C'era la carta velina sopra, poi questa carta gialla dove ti avvolgeva la carne, e quella si metteva da parte perché non si buttava niente. Se c'erano dei giornali anche, si metteva tutto da parte, poi si metteva un grosso secchione grande, si metteva dell'acqua dentro e tutta questa carta a bagno, si lasciava a bagno 2 o 3 giorni e poi si prendeva, si strizzava ben bene, si faceva delle pallottole grosse così e si mettevano a asciugare al sole. Ed inverno si mettevano nella stufa e durava tantissimo e scaldava anche e non si sprecava proprio niente. Guardate anche quanti comportamenti, quanti termini propri del nostro lessico, anche più legato alla contemporaneità, affondano le radici in esperienze per noi perdute. quel vestito è carta da zucchero. Che significa carta da zucchero? Quanti di voi sanno che realmente lo zucchero è incartato con quella carta fra l'azzurrino e il grigio? Quanti sanno cosa sia la carta da macellaio? Oggi la carta è tutta uguale, la carta è bianca, è leggermente scivolosa all'interno, c'è il marchio sopra che deve contenere alimenti, ha tutte le qualità testimoniate e certificate da quei marchi che noi ben conosciamo. Ma allora la carta macellaio era una carta gialla, era ritagliata in grossi fogli e attaccata al gancio dove si attaccavano le teste di coniglio, le teste di capretto. Si prendeva un foglio per volta e ci si avvolgeva, aveva la capacità di trattenere il sangue, di trattenere il liquame della carne che si comprava ogni giorno. La carta veniva riciclata in questa maniera artigianale, venivano fatte palle di carta, mi ricordo, messe da parte, servivano per accendere la stufa e per bruciare la stufa. La carta velina veniva messa da parte, perché la carta velina serviva per un'infinità di usi, tra cui quello di fare il modello dei vestiti da cucire o permettere ai bambini di copiare le immagini quando lo scanner non era poi un oggetto così alla portata di tutti. Ma andando avanti lungo questa strada, io potrei miseramente bruciare anni di fatica per mostrarmi persona con lo sguardo volto verso il futuro e che cerca di essere sempre più avanti del resto del mondo nella scoperta di ciò che farà fibrillare l'umanità, ma soltanto un vecchio nostalgico segnato dai propri ricordi. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog 2.0.